Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano era Retribution dei Behind Enemy Lines, sigla d'apertura di questo programma radiofonico che è Zardins Magnetics e va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30 in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi, nonostante il giorno festivo, ma noi siamo qua presenti in diretta e andiamo all'ascolto adesso di questa band inglese e band storica del punk hardcore inglese sul finire degli anni 70, anche insomma per tutti gli anni 80, dovrebbe essere una band tuttora esistente. E loro erano di Brixton e loro sono i Vice Squad e noi ci ascoltiamo alcuni brani che sono stati raccolti in un LP che raccoglie tutti i loro singoli usciti nel periodo. E andiamo all'ascolto dei Vice Squad. E anch'io saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardes Magnetics. E beh, ricordo che è un programma curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Allora, anche stasera diamo alcuni aggiornamenti su Alfredo Cospito e Anna Beniamino. E ricordiamo che lunedì 5 dicembre a Torino si è svolta l'udienza di appello per il ricalcolo delle condanne per i due compagni nell'ambito dell'operazione repressiva Scriptamanent. E Alfredo e Anna erano stati condannati in primo grado per strage per degli ordigni, cioè sono stati accusati di essere gli autori di un attentato per degli ordigni fatti esplodere nel 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo. Ordigni che non provocarono nessun danno a esseri viventi, ma solo alcuni danni materiali. In seguito, appunto, la Cassazione si era espressa per un aggravamento del reato di strage in strage politica, quindi strage contro la sicurezza dello Stato, che prevede la pena dell'ergastolo ostativo, da cui appunto questa udienza del 5 dicembre scorso per il ricalcolo della pena. Allora, la Corte d'Appello di Torino ha accolto alcune eccezioni avanzate dalla difesa, dagli avvocati difensori di Alfredo ed Anna, perciò ora la decisione passa alla Corte Costituzionale. Il procuratore generale, tal Francesco Saluzzo, ha chiesto per Alfredo l'ergastolo e l'applicazione del regime dell'isolamento diurno per 12 mesi e per Anna la procura ha chiesto 27 anni e un mese. E per continuare a dare voce appunto ai compagni abbiamo pensato di leggere le loro dichiarazioni, le dichiarazioni che hanno fatto in sede di udienza. Dichiarazione di Alfredo Cospito. Leggo soltanto quattro righe, prima di scomparire definitivamente nell'oblio del regime del 41 bis. Lasciatemi dire poche cose e poi tacerò per sempre. La magistratura della Repubblica Italiana ha deciso che, troppo sovversivo, non potevo più avere la possibilità di rivedere le stelle, la libertà. Seppellito definitivamente con l'ergastolo ostativo, che non ho dubbi mi darete, con l'assurda accusa di aver commesso una strage politica per due attentati dimostrativi in piena notte, in luoghi deserti, che non dovevano e non potevano ferire o uccidere nessuno e che di fatto non hanno ferito e ucciso nessuno. Non soddisfatti, oltre all'ergastolo ostativo, visto che dalla galera continuavo a scrivere e collaborare alla stampa anarchica, si è deciso di tapparmi la bocca per sempre con la mordacchia medievale del 41 bis, condannandomi a un limbo senza fine in attesa della morte. Io non ci sto e non mi arrendo e continuerò il mio sciopero della fame per l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo fino all'ultimo mio respiro, per far conoscere al mondo questi due abomini repressivi di questo paese. Siamo in 750 in questo regime ed anche per questo mi batto. Al mio fianco i miei fratelli e sorelle anarchici e rivoluzionari. Alla censura e alle cortine fumogene dei media sono abituato. Queste ultime hanno l'unico obiettivo di mostrificare qualunque oppositore radicale e rivoluzionario. Abolizione del regime del 41 bis, abolizione dell'ergastolo ostativo, solidarietà a tutti i prigionieri anarchici, comunisti e rivoluzionari nel mondo. Sempre per l'anarchia, Alfredo Cospito. Questo è un processo politico che si è mostrato teso fin dall'inizio alla somministrazione della pena esemplare, processo alle nostre identità di anarchici più che ai fatti, processo a chi non ha abiura le proprie idee. Una strage senza strage, attribuita senza prove, è il culmine di un crescente impegno di antiterrorismo e procure per esorcizzare lo spettro dell'anarchismo d'azione. Nello stesso disegno si colloca l'imposizione del 41 bis ad Alfredo Cospito, reo di intrattenere rapporti con il movimento anarchico dal carcere. Lo sciopero della fame a oltranza, che il compagno sta portando avanti dal 20 ottobre, è l'extrema ratio contro isolamento e deprivazione sensoriale, fisica, psichica, contro un bavaglio politico, bavaglio che gli ha impedito finanche di leggere le motivazioni dello sciopero stesso. Il 41 bis è il grado estremo di accanimento dei regimi differenziati. Carceri dove l'isolamento continuato e il sovraffollamento delle sezioni comuni sono le due facce di un sistema teso ad annullare l'individuo. Carceri dove le stragi, quelle vere, si sono verificate e si verificano nella repressione delle rivolte del 2020, nello stillicidio di suicidi, nel trattamento dei più poveri e fragili tra i prigionieri come materiale residuale della società tecnocapitalistica imperante. Se qualcosa accadrà ad Alfredo Cospito, qualsiasi individuo dotato di pensiero critico capirà chi siano i mandanti ed esecutori del suo annientamento fisico, non essendo riusciti a effettuare quello politico e ideale. Sono cosciente di essere ostaggio di un sistema che nasconde dietro al feticcio di sicurezza e terrorismo il suo collasso politico, economico, sociale, ambientale. Opporsi a questo è necessario. Potete distruggere la vita delle persone, non riuscirete a spegnere il pensiero e le pratiche anti-autoritarie, non riuscirete a spezzare la tensione rivoluzionaria, non riuscirete a spegnere l'anarchia. Saluto Alfredo e tutti i compagni. Anna Beniamino. Intanto stiamo ascoltando, anche adesso in sottofondo partirà un altro brano per questa band tedesca esistita alla fine degli anni 80, proprio a cavallo con il 90, e loro erano gli FFF e questo era il loro unico album Electric Violin Trash. Sì, allora stasera io ho pensato di parlare un po' dell'ergastolo. Abbiamo letto prima appunto le dichiarazioni dei compagni, e Alfredo appunto è in sciopero della fame a oltranza anche per l'abolizione dell'ergastolo ostativo. E così ho pensato di questo approfondimento sull'ergastolo facendo alcune letture da un libro che si chiama L'ergastolo dall'inizio alla fine, un libro di Nicola Valentino, che è un compagno lotarmatista che era stato condannato all'ergastolo e poi è uscito dopo 28 anni di detenzione. E è un libro che racconta la sua esperienza, ma non solo, raccoglie diciamo molte testimonianze di ergastolani e poi anche racconta la storia dell'ergastolo, cioè fa un quadro storico e giuridico dell'ergastolo stesso. E allora il libro è edito dalla casa editrice Sensibili alle Foglie. Ho pensato di leggere la fine, di partire dalla fine anziché dall'inizio, nel senso che quando Nicola Valentino è uscito dal carcere ha compiuto diciamo un rito, un rovesciamento di segno del marchio comunque indelebile che il carcere e il fine pena mai lasciano sul soggetto. E questo è interessante perché questo discorso, secondo me è interessante perché questo discorso del cambiare di segno e diciamo ciò che il potere ti attribuisce è qualcosa della quale anche Alfredo Cospito ha parlato diffusamente in maniera molto interessante, insomma, in vari suoi scritti. Tra l'altro c'è uno scritto in particolare sulle streghe, cioè sul tremate tremate le streghe sono tornate, quindi sulla diciamo riappropriazione da parte delle femministe di uno stigma che era quello della stregoneria imposta appunto dagli inquisitori, e quindi questo cambio di segno che per prime, dice Alfredo, le donne, quindi i soggetti sociali più sfruttati e oppressi diciamo dalla società patriarcale hanno messo in atto. E su questa cosa però approfondiremo in un altro momento, nel senso che nel mio così disordine non trovo esattamente l'articolo a cui mi riferisco. Ma ritorniamo al discorso dell'ergastolo. Allora, ci racconta Nicola Valentino la fine. Il 4 ottobre 2006, dopo 27 anni, 8 mesi e 8 giorni, ho finito di scontare la mia pena all'ergastolo. Un paio di mesi dopo sono andato da un amico tatuatore con un progetto per raccontare questa indelebile storia. Avevo chiesto ad alcune persone care che mi hanno aiutato a raggiungere vivo il traguardo di scrivere di loro pugno la data su un foglio di carta. Una di esse ha preferito tracciarla in arabo, volendo usare per una maggiore forza simbolica la scrittura del suo paese di nascita. Un'altra pensava divertita di doverla pungere direttamente sulla pelle, eppure si sentiva onorata. La più meravigliata mi ha detto: «Ma come? In carcere non ti sei mai tatuato e lo fai proprio ora che hai finito?» C'è stata anche una persona che ha rifiutato per il carattere cruento del rito. L'amico tatuatore, dal canto suo, si sentiva in procinto di conseguire un primato, perché di date ne aveva tatuate tante, soprattutto nascite e matrimoni, ma una così paradossale proprio non la poteva prevedere. Le diverse grafie, una volta raccolte su carta, sono state ricopiate sulla pelle per essere incise a contorno di un giglio, simbolo della casa reale francese con cui, come si racconta in questo libro, venivano marchiati gli ergastolani nella Francia monarchica. Il tatuaggio è stato inciso dopo un'accurata discussione sulla parte interna dell'avambraccio destro, così da poter essere visto e goduto facilmente anche da me. Tracciare questo racconto a fior di pelle mi è servito innanzitutto per sancire con un rito la fine di una pena eterna. Varcare la soglia dell'ergastolo per molti anni non era stato nemmeno pensabile. Ma poiché il giorno del fine pena era giunto, andava scritto in un modo tale da non poter essere cancellato. La fine dell'ergastolo non ha la stessa liturgia del suo inizio, quella che viene costruita con la sentenza di condanna. Il fine pena passa inosservato fra le carte della burocrazia penale, non è scritto a chiare lettere, al punto che non capisci se ti stia accadendo davvero. È bene allora scriverlo indelebilmente, dichiararselo. Oltre a scrivere una data, il tatuaggio vuol portare a consapevolezza costante alcuni fatti: che la pena di schiavitù dell'ergastolo, pur se esaurita, resta nel corpo come un marchio indelebile, che quel marchio già era sotto pelle dal momento della condanna. Il tatuaggio lo ha solo evidenziato. Che essere arrivato all'affrancamento dalla pena non è stata un'impresa individuale, ma il frutto di una solidarietà collettiva che solo simbolicamente è rappresentata dalle quattro grafie che mi porto sul braccio. Molte sono state infatti le singole persone, le famiglie, le comunità d'amici e compagni che hanno condiviso con me in vario modo l'ergastolo, pur non dovendolo scontare, facendomi sentire, nonostante la pena eliminativa, parte di una rete sociale. Ciò ha evitato l'abbruttimento insito nella condanna e favorito le risorse per costruirmi una vita sociale. La fonte di vitalità più preziosa per gli esseri umani resta la tessitura di legami sociali e di appartenenze molteplici. La presunzione sottesa nella più eliminativa delle istituzioni penali, vale a dire quella di poter sradicare definitivamente un individuo dalla specie, fallisce quando la torsione dell'ergastolano e la sua sopravvivenza alla condanna implicano e coinvolgono tutta la sua rete amicale, familiare, lavorativa e affettiva. You E continuiamo a leggere da questa testimonianza di Nicola Valentino sull'ergastolo. Il marchio. Al marchio impresso a fuoco sul corpo del malcapitato si può dare il doppio significato di marchio di proprietà e segno di infamia. Schiavo del re di Francia, questo potrebbe essere il valore simbolico del giglio, segno della casa reale francese, impresso a fuoco sul corpo del condannato. Siglato sulla fronte o sulle guance, il marchio serve anche ad additare pubblicamente e per sempre la persona segnata. Tatuaggio indelebile di messa al bando dalla comunità. Ancora di recente, negli Stati Uniti, un uomo politico californiano ha proposto un referendum per marchiare sulla fronte con il numero di matricola che avevano in prigione gli ex detenuti. Ma nel nostro secolo è il mai, scritto in sentenza, ad accompagnare come un marchio indelebile il corpo del condannato. Recuperando il costume usato per le vecchie pene infamanti, la sentenza di condanna all'ergastolo è l'unica per cui è ancora prevista la sanzione della pubblicità. Essa viene eseguita mediante l'affissione della sentenza nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il delitto è stato commesso e nel comune dell'ultima residenza del condannato. La sentenza viene anche pubblicata per una sola volta in uno o più giornali designati dal giudice. Quel recluso aveva sul corpo centinaia di tatuaggi che con gli anni si facevano sempre più piccoli perché lo spazio era via via minore. Si tatuava ogni evento significativo della sua vita, per non dimenticarlo, diceva, e così la sua pelle mostrava un gran travaglio di date, di nomi, di cuori, di lame e scarabocchi. La mia vita, diceva, tutto è scritto. Anche la parola ergastolo, come la condanna che un giudice con mano ferma aveva inciso sulla sua spalla senza neppure saperlo. La tradizione di tatuarsi, che appartiene agli ergastolani come del resto ad altri reclusi, sembra custodire la memoria di una contestazione antica al marchio di schiavitù imposto loro originariamente dal potere. È per reagire a questo marchio che gli ergastolani hanno cominciato a scrivere sul loro corpo segni di appartenenza a gruppi e organizzazioni di malavita cosiddetta, oppure simboli attraverso cui dire: io appartengo a me stesso, questa che leggete è la mia storia e identità. Come i poteri hanno inciso i loro marchi sul corpo dei reclusi, così i reclusi hanno rovesciato il messaggio dei poteri, tatuando sul proprio corpo simboli di libertà. Come a dire, nonostante le sbarre che mi imponete, il desiderio di libertà in me resta vivo. Tra i simboli tatuati ricorrono spesso sbarre, catene e fili spinati di recinzione spezzati. Il veliero, i gabbiani, la farfalla e il fiore sono comunque i più ricorrenti. I primi tre alludono esplicitamente al volo e al viaggio in grandi spazi. Il fiore sbocciato, nelle sue tante versioni, rimanda invece ad un'idea di rinnovamento della conoscenza che nasce dall'esperienza. Boy! per finire con il contributo di Nicola Valentino, parliamo di isolamento diurno, visto che si tratta, sì, c'è, riguarda anche l'isolamento diurno, l'infame proposta della Procura Generale per quanto riguarda Alfredo. L'ergastolo è l'unica condanna che comporta, qualora concorrano più reati, l'aggiunta in sentenza dell'isolamento diurno, che può variare in alcuni casi da 2 a 18 mesi, in altri da 2 mesi a 3 anni. Mesi o anni che vengono fatti espiare durante la detenzione in modo arbitrario, quando si creano le circostanze detentive per poterli applicare, quando si vogliono esercitare pressioni sulla singola persona. Questi anni o mesi di isolamento costituiscono quindi unicamente una afflizione aggiuntiva che incombe sull'ergastolano. E ci racconta una storia Nicola Valentino. Giugno 1983, carcere di Voghera. Ergastolana Novella viene sottoposta all'isolamento diurno in un carcere di massima sicurezza. Le viene destinata una cella in un reparto distante da quello delle altre detenute, dove deve restare dalle 8 alle 20. Effettua l'aria in solitudine. In cella la radio è sempre accesa ed il suo volume è controllato all'esterno dai responsabili del carcere. Il volume della radio viene alzato al massimo nel caso giungano grida dalle detenute delle altre sezioni. Le viene impedito di recarsi nella sala medica, poiché in tal modo potrebbe incontrare altre detenute. Le viene impedito di recarsi al colloquio sia con i familiari che con il difensore nell'orario normale dei colloqui, sempre per rendere impossibile qualsivoglia incontro. Alle ore 20 viene spostata in sezione per passare la notte in una cella, con a fianco una cella vuota e sotto un'altra cella vuota, per rendere impossibile qualsivoglia contatto vocale con altre detenute. Bene, direttamente da Washington DC, loro erano i Minor Threat, band storica dell'hardcore statunitense, da questo loro, credo, unico LP, Out of Tip, del 1983, e rimaniamo comunque sempre all'ascolto dei Minor Threat. One. Ecco, sono le 20:49. Ribadisco che siete all'ascolto di Zanis Magnetics. Siamo qui in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane che ci ospita. Allora, abbiamo parlato di ergastolo e anche di isolamento diurno, sempre come ulteriore misura afflittiva collegata alla pena dell'ergastolo. Cambiamo argomento, ma sempre, diciamo, sull'onda della suggestione delle parole, dei pensieri dei compagni in lotta, di Alfredo Anna, ma non solo di loro, anche degli altri compagni anarchici e rivoluzionari. E tra le varie suggestioni c'è questa parola, questo concetto di iniziativa. E pensando a questa parola, a questo concetto, così mi è tornata tra le mani un articolo di un che non riguarda direttamente peraltro la politica, per così dire, ma riguarda più l'educazione, la pedagogia e l'educazione. Però è di questo Fernand de Ligny, che era un maestro praticamente, che poi ha lavorato prevalentemente, ma più che lavorato è un termine riduttivo, perché ha dedicato, si può dire, la vita a bambini che avevano problematiche, specificamente bambini autistici che avevano difficoltà con il linguaggio verbale, cioè non volevano esprimersi attraverso il linguaggio verbale. Questo libro specifico, da cui leggerò un pezzettino, si chiama I bambini e il silenzio, e racconta proprio la storia di, tra le altre cose, racconta la storia di questo Jean-Marie, un bambino che aveva vissuto al momento della stesura del libro già 13 anni a fianco di de Ligny. E allora questo l'articoletto che vi leggo è, appunto, si intitola La giostra e parla di questa cosa dell'iniziativa. Allora, vabbè, è dedicato a un Isaac Joseph che non so chi sia. Comunque, ci dice Fernand de Ligny: un'iniziativa non si prende. Lei, riferito a Isaac Joseph, ha messo prende tra virgolette. Io invece, come lei può supporre, metterei in rilievo tra virgolette sì. Per questo prendere iniziative è così raro, mentre fermentano nostalgie di innovazione. La parola innovazione evoca il si innova, è una parola in zione. Mi chiedo se non appartenga allo stesso ceppo della parola istituzione. E forse proprio qui i progetti trovano un intoppo. L'istituzione è lo Stato. Per me è chiaro che un'iniziativa, un tentativo, non ha nulla a che vedere con lo Stato, a meno di riferirla all'innovazione con cui l'istituzione si rinnova. È noto quanto valgano questi rinnovamenti che lo Stato argina. Non si spingono oltre lo Stato, non vanno cioè oltre il programma di chi gestisce il potere. Il potere di chi su chi, mentre le ideologie proliferano. La linea di un tentativo è incredibilmente utopistica. Certamente sogna a occhi aperti, è come se vivesse nell'intemporale e a questo proposito ne sente delle belle, mentre esiste proprio nel cuore del suo tempo. Situazione paradossale, mostruosità politica, suscita ovviamente non poche nostalgie in chi si sforza di pensare giusto. Un tentativo è un piccolo evento prematuro, e mentre gli eventi politici di rilievo richiedono una certa maturazione, ecco comparire in un punto del tutto particolare dell'orologeria di Stato, e mentre i progetti politici incrementano la loro strategia di presa del potere, un'iniziativa quanto mai precaria, che prende corpo e si consolida. Justice, there is just us. It threatens and tortures with happy, the end stays in your feet. They'll send out the hippies to bring you in. Mercenaries, mercenaries, mercenaries. You will be judged by the profit you bring. You'll be protected by the thief is king. Mercenaries, mercenaries, mercenaries. So big and brave, hard muscle for the mainframe. Imposing a dystopian dream. All aboard the gravy train. They're only doing their job, following orders, they feel no shame. Social resistance, the wealth of destruction by the masters. Financial gain. If complicit obedience isn't your thing, they'll send out the heavies to bring you in. Mercenaries, mercenaries, mercenaries. You will be judged by the business you bring. You'll be protected where the thief is king. Mercenaries, mercenaries, mercenaries. E continuiamo con la lettura di Fernand Deligny sull'iniziativa. Dicevamo, un tentativo è un piccolo evento prematuro. Un'iniziativa quanto mai precaria che prende corpo e si consolida. Mi riferisco, magari solo per l'immagine, a quanto accade quando un bambino privo dell'uso del linguaggio prende un'iniziativa. Spesso si può vedere la falla nel reiterato, sempre identico, proveniente dall'ambiente che ha consentito o provocato la presa dell'iniziativa. Dunque, un'iniziativa si prende, si fomenta, si spia, si aspetta. Sì, bisogna anche aspettarsela. Allora, cos'è quella S maiuscola? Si tratta di qualcuno, certamente costui, intendo dire ciascuno, è passato attraverso la storia, l'ha presa, l'iniziativa. Tutto qui? Sarebbe soltanto storia? Nel momento in cui racconto, improvvisamente, di storia non ce n'è più, ma proprio più. La vecchia non era più nella sua, io non ero più nella mia, e nemmeno la storia, senza soggetto, né oggetto, né fine, fini. È così anche per l'umano che era scaturito sempre intatto e che può dirsi senza soggetto, senza oggetto e senza storia, storie. Mi chiedo se un'iniziativa non sia questa. Intatto da quando esiste la specie, scaturisce l'umano. Si capirà che l'umano di cui parlo non ha niente a che vedere con gli umanesimi? Fire inside is dead, dead, dead. Get your lifetime on your knees till the fire inside is dead. Ecco, e passiamo, sempre parlando di iniziativa, da Fernand de Ligny al contributo scritto dal compagno Massimo per l'incontro sulla soglia, due giorni di discussione in Sicilia su Sud, civiltà contadina, apocalisse culturale e cosmovisione, rivoluzione, che si è svolto lo scorso ottobre. E ci sono alcuni punti, è un articolo molto lungo, insomma approfondito, ma ci sono alcuni punti che... particolarmente toccanti. L'articolo si intitola Gocce di un passato vivente e potete trovarlo sul blog Il Rovescio. Allora, vediamo cosa si dice dell'iniziativa. La parola iniziativa, che oggi vale per un corteo, per un dibattito o per un concerto, e che spesso viene addirittura sostituita da quella più social di evento, irrompe nel lessico rivoluzionario italiano con il significato di fatto insurrezionale, perché solo per tale via si inizia davvero qualcosa. Questa accezione, che da Mazzini passa agli internazionalisti tramite Pisacane, non mi sembra sia presente nel vocabolario politico europeo. Stessa cosa per l'aggettivo sostantivo anarchico, anarchica, anarchici. In inglese, in castigliano, in tedesco, in francese, eccetera, il movimento specifico anticipato da Proudhon e Bakunin e poi formalizzatosi nel 1872 a Saint-Imier è detto anarchist, anarchista, anarchist. Solo in lingua italiana è chiamato anarchico, tant'è che Bakunin, in quello che è forse il suo testo rivoluzionario più importante, La lettera a un francese sulla crisi attuale dell'estate del 1870, distingue tra movimento anarchiste dei rivoluzionari e movimento anarchique delle popolazioni. Il primo corrisponde alla minoranza agente che tende verso l'anarchia. Il secondo corrisponde grosso modo a ciò che il rivoluzionario russo chiamava scatenamento delle cattive passioni o barbarie popolare. Ora, anarchico non è colui o ciò che aspira all'assenza di comando, ma colui o ciò che è già senza comando. Siamo anarchisti e anarchiste, ma ci diciamo, non so se unici al mondo, anarchici e anarchiche, fatto interessante quanto impegnativo, utopico al massimo grado, perché abolisce nel linguaggio ogni distanza tra potenza e atto, tra ideale e forma di vita. Mettere in comune i mezzi di produzione e distribuire il prodotto in base all'impegno lavorativo di ciascuno, secondo l'argomentazione di Caffiero, Costa e Malatesta, presuppone un'unità di misura e dunque un potere centralizzato incaricato di applicarla e farla rispettare. Unica soluzione anarchica, la solidarietà cosciente e voluta. L'equità è dividere in parti uguali, la solidarietà è farlo in base ai bisogni. Tu hai più bocche da sfamare, quindi devi poter prendere di più. Ma questo non può essere imposto, altrimenti si finisce in un regime da caserma, il quale riprodurrebbe inevitabilmente il comando politico e il privilegio economico. L'orientamento comunista non vale solo per la futura società anarchica, ma deve valere subito, nei mezzi di sopravvivenza come in quelli della propaganda e dell'azione. Per questo il ricco Caffiero finirà povero in bolletta. Per chi lavora alla distruzione del capitalismo e dello Stato, secondo la singolare definizione che il giovane Malatesta dava all'Associazione Internazionale dei Lavoratori, l'ideale comunista anarchico non è uno scopo finale, bensì un movente e un orientamento fin dall'oggi. Anarchici, appunto, non anarchisti. Benjamin dirà tanti anni dopo che fare del comunismo uno scopo significa già falsificarlo in una declinazione materialistica della parabola evangelica. Il comunismo, il regno dei cieli, arriva per il sovrammercato quando si vive e si agisce qui e ora secondo i suoi principi. Thank you. L'anarchismo delle origini contrappone la rivoluzione sociale a quella politica, cioè la trasformazione di fatto al cambiamento per decreto, non solo perché emancipare una società dall'alto è qualcosa di inevitabilmente autoritario e foriero di un potere tutt'altro che transitorio, ma soprattutto perché è impossibile. Soltanto cominciando a liberarsi, gli individui possono incamminarsi sulla strada della libertà. Il concetto di politica è quantomeno ambivalente, indicando tanto la cura comune della polis quanto l'arte di governare, cioè la creazione di una sfera di gestione separata e specializzata. In breve, l'usurpazione del potere di agire di concerto da parte dello Stato. Forse il punto non è, o non è più, dopo gli esperimenti totalitari del Novecento, contrapporre alla politica una supposta spontaneità sociale da liberare. Il grande antropologo libertario Pierre Clastres ha illustrato in modo meticoloso che le società senza e contro lo Stato non nascono libere perché selvagge, bensì si autoistituiscono politicamente come tali, cioè introducono consapevolmente dei contrappesi simbolici e materiali affinché il potere rimanga circolatorio e non diventi coercitivo, affinché il potere di agire di concerto non si trasformi nel dominio di una minoranza. Se questo è vero, l'iniziativa comunista anarchica, per ritornare alle parole della nostra storia, non è l'insorgenza di un sociale represso, bensì la sua invenzione insurrezionale, cioè la consapevole riattivazione di materiali antichi levigati da nuovi modi d'uso. Ecco, stiamo ascoltando, perché adesso partirà un ultimo brano per questa band, sono i londinesi Inner Terrestrial, dal loro album Heart of the Free, ed è datato 2021. Mentre volevo anche ricordare che negli interventi precedenti, all'inizio trasmissione, in sottofondo stavamo ascoltando il Teatro delle Ombre, band diciamo udinese goriziana. E rimaniamo comunque ora con appunto gli Inner Terrestrials. So watch your back and lend you a strong hand. I'm a long and winding road. At home and in many a distant strand. It seems so sad. If all you care about is what you look like. To toss the crows are circling, facile superficial egotist, wind your necks in. It may be so, there are no heroes anymore. Ask yourself if there ever was, it's good in life to have friendship, trust a solid crew, people who keep it real and say it true. It's all about life force again. So fight, make straight, make straight, I'm not perfect. You sit the ground and face the loss. Follow the tears, you rock the night. You hit the heart and live your life. Di aggressione alle forze dell'ordine, agli operatori della giustizia in genere, ritengo che si debbano adottare provvedimenti amministrativi e proporre provvedimenti legislativi di carattere particolare. Questa mattina ho impartito istruzioni alle forze di polizia per un accresciuto rigore e per una maggiore sicurezza nei servizi di polizia lungo le strade. E ho firmato un decreto con cui viene autorizzato l'uso delle bande chiodate per fermare gli automezzi che sono sottoposti a controlli da parte della polizia. Rivolgo un appello a tutti i cittadini perché comprendano che questo accrescimento di disagi che può derivare agli utenti della strada è fatto nel loro stesso interesse, per garantire i diritti di tutti i cittadini e per difendere coloro che operano nell'interesse della legge. Buonasera, un saluto anche da parte mia per questa puntata dell'8 dicembre di Zardins Magnetics, che ormai si avvia verso le battute finali di questa ora e mezza di qui in diretta da Radio Onde Furlane di Udine. Questa sera vi volevo così fare un ragionamento, cercare di fare un ragionamento a partire dal anniversario della strage di Piazza Fontana, così però portando avanti il filo, diciamo, che è stato condotto fino adesso sul riprendere un po' le questioni, le spinte, insomma le suggestioni che sono venute dalle dichiarazioni pubblicate, appunto agli atti, quindi pubblicate di Alfredo e Anna all'udienza di Torino per Scriptamanent. Allora, prima che parlassi io, ha parlato, non so se l'avete riconosciuto, era un famigerato ministro dell'interno, poi anche il Presidente della Repubblica, perché comunque quello che è successo il 12 dicembre 69 a Milano, in Piazza Fontana, cioè il collocamento, insomma, l'aver collocato una valigia carica di tritolo dentro un venerdì sera, nel momento in cui si tradizionalmente, insomma, si svolgeva il mercato contadino della zona, insomma, di Milano. Quella volta c'erano ancora imprenditori, insomma, agricoli, anche chi si occupava di compravendita, insomma, sensali, queste cose qua di un passato, ormai allora passato contadino, adesso proprio passato remoto italiano. Non esiste ancora l'industria, diciamo, l'agroindustria, e quindi fu collocata questa bomba che creò un cratere dove appunto persero la vita una quindicina di questi incolpevoli, assolutamente, uomini, erano tutti uomini di mezza età e oltre anche. Dunque, dicevo, per entrare su questo discorso della strage di Piazza Fontana bisogna partire un attimo prima. Io vi ho messo, cioè noi qua stasera abbiamo messo Cossiga, che di un attimo dopo, era ministro dell'interno un attimo dopo, però è sempre dentro quella cornice lì, e vediamo se riesco a tenere insieme anche questa cosa, perché partendo, insomma, dalla suggestione, dal fatto che nel 2022 viene prodotto dall'azienda televisiva di Stato e nonché anche grosso produttore, principale produttore, penso, cinematografico del paese, viene prodotta una serie sul diciamo esterno notte, scusate, di un ex, cioè di un sì, insomma, dell'autore Marco Bellocchio, e sul caso Moro, no? Nel 2022, quindi vengono messe in scena questi personaggi, come, cioè, anche interpretati da attori di rilievo e senz'altro, insomma, anche bravi, niente da dire. E dopo, appunto, questa Marchingegno magari ne parleremo più diffusamente in un altro momento. E in questa seconda puntata della serie Esterno Notte, dedicata a Cossiga, appunto, c'è uno sclero a un certo punto che si svolge al Viminale, dove Cossiga si rivolge a un ipotetico consulente suo, non so, psichiatrico, non si capisce bene, che distingue tre categorie, diciamo, quelli che sono i soggetti, insomma, di questo dramma, chiamiamolo dramma nel senso proprio, sì, di questa azione, intendo, che sono nevrotici, psicotici e paranoici. I paranoici sono lo Stato, e la inteso come Democrazia Cristiana e Stato, apparato, autorità, insomma, dove appunto quella volta la Democrazia Cristiana occupava ogni tipo di istituzione e rappresentava anche l'istituzione. Poi gli psicotici sarebbero le BR, perché appunto soffrono di psicosi, insomma, immaginano cose che non hanno riscontro reale, e nevrotici, presumo io, insomma, cioè sono quelli che sono spinti imitare, insomma, imitare l'azione di Via Fani, insomma, sarebbe, io credo, il movimento in generale di 77-78 e in particolare l'autonomia romana, no? E appunto questo sclero di Cossiga che dice questi qua. Sì, non sono riuscito a recuperare lo spezzone. Comunque dice: è presto detto, questo qua, sono frasi che può dire un perito industriale, io devo star zitto, devo trattenermi, perché a 19 anni avevo già una laurea in giurisprudenza, a 23 anni ero ordinario, eccetera eccetera. Appunto, tutta questa operazione della serie Esterno Notte, senza tutta una serie che, appunto, ripeto, magari ne riparleremo, però viene da lontano, dicevo, perché Cossiga, appunto, e la Democrazia Cristiana erano già da mo in corsa con questo tipo di cioè con un'operazione, diciamo, di diffusa, di diciamo di addestramento degli apparati militari, e nonché poi, appunto, cioè tra gli apparati militari in quel momento lì i carabinieri non erano separati dall'esercito, quindi c'era dentro anche i carabinieri. Si parte da lontano, appunto, si parte dal piano solo, addirittura del 64, quando ci fu questo scandalo che adesso non posso dilungarmi. Comunque c'era capo di stato maggiore della difesa, c'era questo generale Aloia, che prima di essere stato capo di stato maggiore della difesa era stato capo di stato maggiore dell'esercito, appunto, e sulla falsariga dei convegni NATO di qualche anno prima, insomma, dalla fine degli anni 50, alla fine degli anni 50 negli Stati Uniti la NATO chiaramente sempre anticipa le mosse, quindi avevano prospettato la possibile mutamento, diciamo, di clima politico anche in Europa e anche soprattutto in Italia, con l'entrata del Partito Socialista nella maggioranza, eccetera. Insomma, quindi si erano premuniti e avevano sviluppato tutta una serie di azioni, tra quali appunto questi, messo in piedi da questo generale Aloia i corsi di ardimento, per cui c'erano appunto alla scuola di fanteria di Cesano si tenevano questi corsi per addestrare gli ufficiali a mettere in piedi un clima psicologico e etico, diciamo, contro i sovversivi, e essere in grado di fronteggiare situazioni di insorgenza, no? Ecco, appunto, arriviamo alla fine, dopo questi 5, 6, 7, 8, 10 anni, appunto, arriviamo all'appuntamento con l'insorgenza, tra virgolette, perché appunto si scatena nel 68, poi nel 69 l'autunno caldo, tutta una serie di conquiste, di clima insomma mutato, di possibilità di partecipare in maniera diretta alle cose, e viene improvvisamente bloccato, no? con questa bomba. E ricordo appunto che un testimone diretto di quella situazione è stato Maurizio Ferrari, nelle sue memorie dice appunto, vi leggo, questa era la lotta che c'era quando arrivò l'attacco della bomba di Piazza Fontana. Mi ricordo benissimo i funerali, dopo 3 o 4 giorni. Quella mattina arrivare in Piazza Duomo era molto difficile. Chi ci è riuscito è stato bravo. Tutte le fabbriche erano bloccate. Non c'era manco un tram in giro, un silenzio della Madonna. Dall'Ortica non riuscimmo a raggiungere il centro, ci fermammo prima, era tutto pieno, tutto fermo. Gli operai della Richard Ginori quel giorno mi dissero: questa qui le contre de nous. Sì, questa qui, la bomba, era proprio contro di noi. A Milano si erano già visti troppi cortei operai, magari aperti dallo striscione, Agnelli, Pirelli, Ladri Gemelli. Cortei che facevano molto effetto su di me e credo su chiunque. Loro dovevano fermare questa cosa che ti smuoveva il sangue. Ecco, questo qua era un testimone appunto diretto di quei momenti di grande confusione, oltre che, cioè, prima di tutto appunto di terrore dilagante, diciamo, in tutti questi giovani, ma anche giovani, diciamo, belli frizzanti, insomma, con tanta voglia di cambiare le cose, e in grande numero, anche appunto da un punto di vista demografico, i figli del boom, appunto, cioè insomma i protagonisti del boom, diciamo, quelli che erano adolescenti, ragazzi durante il boom, e quel momento di grande, insomma, disorientamento, su cui adesso non ritorneremo, cioè non possiamo adesso aprirlo, lo faremo, colgo l'occasione, e cercheremo di farlo lunedì sera a Udine, per quelli del Friuli e dintorni, insomma lunedì sera a Udine, che è il 12 dicembre, partiremo dalla proiezione di un filmato che era stato realizzato a Milano un po' d'anni fa, Bomba e Sangue Capitale, è un filmato realizzato, dicevo, appunto da questi ho tirato fuori perché ne avevamo già parlato a Zarnis Magnetics quando abbiamo parlato di la critica radicale in Italia, ma un attimo prima di andare avanti concludo la serata che sarà a Udine, appunto allo spazio autogestito di via De Rubeis alle 8, via De Rubeis 43, questa proiezione, poi insomma discussione su come viene, insomma, vengono architettate queste, insomma, vere e proprie, come si può dire, specie di teatro giapponese, non so, cioè sono cose, drammatizzazioni, sì, mosse contro i rivoluzionari, rivoluzionari e controrivoluzionari, insomma, ma dicevo, appunto, qualcuno ebbe la lucidità, appunto, quel, subito in quel momento, di capire, come ci ha raccontato Mao, che sta qui le contre de nous, cioè questa la bomba è diretta, insomma, è indirizzata, è puntata contro di noi. Ma cosa ho da dire? Beh, è contro il cervello, contro le coscienze, non, sì, non nella realtà, insomma, nel, di fatto, però era una cosa, un messaggio chiaro a chiunque, insomma, di fermarsi, anzi neanche di stare ben attenti a quello che facevano, di rigar dritto. Qualcuno si è accorto, si accorse in tempo reale di questa operazione. E in realtà ne erano, diciamo, sono passati alla, sono diventati più famosi, perdonatemi, insomma, la parola, ma comunque un volantino che era stato fatto dai situazionisti, no? Perché poi i situazionisti in realtà sono, cioè, un po' una un cotè, diciamo, culturale ma anche politico, che ha condizionato e condiziona ancora adesso molto, insomma, tutta la, diciamo, la speculazione così teorica sui, insomma, sui movimenti, sulle possibilità rivoluzionarie. E dico adesso, diciamo noi, così, secondo noi anche c'è, cioè, anche un influsso non proprio tanto salutare su tutte queste tipo di considerazioni, in quanto tende a bloccare. Ma perché andrebbe fatto adesso qua un approfondimento, che non riusciamo perché siamo gli sgoccioli, ma perché comunque era concepito in una maniera, insomma, tutta l'architettura, diciamo, situazionista era partita con un certo tipo di impostazione, per cui, insomma, si dicevano pubblicamente delle cose, però c'era sempre un doppio registro, cioè c'era un registro sotterraneo, in modo che chi, cioè quelli a cui il messaggio era rivolto, lo intendevano. Questa era l'intenzione, no, di De Boer, soci. Quindi c'era questo volantino nel dicembre, immediatamente, insomma, apparso nel 19 dicembre, il Reichstag brucia, che adesso non ho tempo di leggervi, che però era effettivamente, era tipicamente situazionista in questo, nel senso che era abbastanza così impersonale, ma anche ambiguo, no? In qualche maniera, per esempio, non diceva che, insomma, erano stati incolpati gli anarchici, che Pinelli era stato assassinato, non lo diceva, lasciava implicito, ben più, appunto, ben più incisivo questo Bombe Sangue Capitale, che uscì qualche settimana dopo, gennaio 70, a cura, appunto, di LUD, Consigli Proletari, che era questo gruppo, insomma, su Torino, Genova, Milano, di una manciata di compagni che partivano, insomma, dalla tradizione consigliarista, appunto, e poi avevano vissuto esistenzialmente la rivolta, insomma, del 68, il maggio 68, di, insomma, e dove, appunto, invece Bombe Sangue Capitale, perché appunto riprendeva, come abbiamo messo nella chiamata per quella iniziativa che faremo lunedì sera, appunto Bombe Sangue Capitale è il, diciamo, il détournement di Bombe Sangue Anarchia, che era uno slogan che il gruppetto dove girava Pietro Valpreda, il compagno insomma incolpato di essere l'autore della strage, insomma che si caratterizzava per essere, diciamo, fra i più estremisti, e aveva questo, insomma, questo slogan estremista, si rifaceva appunto alla tradizione nichilista, eccetera eccetera. Bombe Sangue Capitale invece, appunto, perché non, le cose sono chiare, il mandante è quello, no? Non certo, insomma, le minoritarie posizioni nichiliste, ma appunto dice un certo punto il volantino: noi vi accusiamo, sicari burocrati capitalisti, di fronte al tribunale della lotta di classe, dal quale solo il proletariato aspetta giustizia, della strage di Piazza Fontana e dell'omicidio del compagno anarchico Pinelli. E così, e adesso possiamo mandare il contributo audio. La sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera aprì un po' la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. Commissario, io gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuole dir bombe, ma eguaglianza nella libertà. Poche storie indiziato Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, lui è l'autore di questo attentato e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, tra i padroni bisogna cercare chi le bombe ha fatto scoppiare. Altre bombe verranno gettate per frenare la lotta di classe. I padroni e i burocrati sanno che non siamo più disposti a trattare. Ora basta, indiziato Pinelli, Calabresi nervoso gridava. Apri un po' la finestra, quattro piani son duri da far. In dicembre a Milano era caldo, ma che caldo faceva. È bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò.